torniamo subito in diretta. Del resto l'appuntamento era fra le 8:30, ora sono le 8:36, un minutino di ritardo che saprà perdonare il nostro ospite Luca Livoti, che è qua in diretta telefonica con noi. Intanto grazie per l'attesa. Luca, ci sei? Oh, non ha aspettato. Beh, comprensibile anche, eh? Adesso ci riproviamo. Ecco, adesso abbiamo ripristinato il collegamento. Eccolo qui, Luca Livoti, buongiorno. Buongiorno William, buongiorno. Grazie della disponibilità, perdona per questo misunderstanding tra il tecnico e la conversazione a distanza, ma quello su cui vogliamo fare chiarezza è una nuova programmazione estiva al Fondo Comini, al Giardino Donatori di Sangue, che anche esso è vicino alla nostra sede, è in via Fioravanti 68 a Bologna. Esatto. Musica, incontri, presentazioni e proiezioni da giugno a ottobre nel cuore della Bolognina. Allora iniziamo subito la nostra conversazione perché vogliamo saperne di più. Intanto cominciamo dalla genesi. Dalla genesi, l'ho detto molto in bolognese, perdona, quando si parla in fretta capi. Da che idea nasce questo progetto, Luca? Allora, questo progetto nasce dall'esigenza di avere uno spazio estivo come Binario 69, quindi passare dal club invernale ad uno spazio estivo. Infatti per 3 anni abbiamo gestito la Montagnola. Sì. E siccome comunque ci siamo troppo affezionati a quello che è il quartiere della Bolognina, abbiamo cominciato a cercare uno spazio proprio lì, in quello che sentiamo il nostro quartiere, anche perché molto del nostro pubblico proviene da quella zona. E dopo un po' di ricerche, dopo varie ricerche e dei dubbi, abbiamo scelto Fondo Comini, dove abbiamo trovato una disponibilità da parte della casa di quartiere, da parte del quartiere stesso, da parte del circolo anziani che è presente all'interno del giardino. Sì. Ed è bello perché proprio proseguire un percorso che già stiamo facendo col binario e anche con il poggiolo su a Montesole di resistenza culturale. Certo. In un quartiere che è il più popoloso a livello di etnie a Bologna. Sì, e appunto allora la prossima domanda è abbastanza intuitiva e intuibile, però insomma abbiamo parlato di una realtà oltre che di attenzione a una specificità territoriale quanto mai meritoria, un festival esteso che su quali obiettivi culturali si fonde? Abbiamo letto musica, presentazioni, motivi di incontro e quant'altro. Ci puoi dire qualcosa di più approfondito, Luca? Allora, prima di dire qualcosa approfondito, ti dico che prima di iniziare una programmazione e di arrivare lì nel posto, comunque abbiamo fatto vari incontri con le associazioni del luogo, appunto per capire quali erano le esigenze, quali erano le necessità, cosa mancava nel parco, cosa cercavano loro. Quindi abbiamo basato la nostra programmazione su una programmazione proprio multiculturale, multietnica, principalmente dal punto di vista musicale, perché abbiamo concerti che spaziano dalla musica gnawa alla musica pakistana, alla cumbia, anche un paio di giapponesi abbiamo, degli statunitensi, della world music, argentina, guarda, spaziamo musica marocchina, spaziamo su veramente tanti generi presenti appunto in Bolognina, e l'obiettivo è quello di unire il più possibile, di utilizzare l'arte come filo conduttore, come attrattore, come catalizzatore di realtà diverse che attraverso la musica possono avvicinarsi, condividere. Sì, e poi dai programmi di Binario 69 è altrettanto intuibile questa sensazione, micro e macro sensazione, che vede un centro che sia amplificatore di tutto ciò. Ad esempio, tra i nomi presenti leggo anche il duo composto da Pasquale Mirra e Gianluca Petrella, che sarà il 10 luglio, la nostra passione per il jazz, che è uno dei protagonisti in questa rassegna, è assolutamente oltre che soddisfatto. Resto anche abbastanza curioso per appuntamenti con concerti a sorpresa. Adesso è una sorpresa, quindi non me ne puoi parlare, però dai, guarda, ti dico la verità, nel senso che ti posso dire il format qual è. Siccome comunque entrando in un quartiere comunque si entra sempre in punta di piedi, per cui un po' di, tra tutta la fitta programmazione che abbiamo, un po' di spazi li abbiamo voluti lasciare, per cui la domenica, visto che c'è l'aperitivo di Cucine Popolari, sì, abbiamo deciso di inserire quelle cose che, diciamolo così, fuori lenti, che capita all'ultimo, un po' più improvvisate, un po' più arriva il duo di musica jazz che è in tour, è un day off, viene a suonare di pomeriggio all'aperitivo con Cucine Popolari. Ci sono la palestra di tessuti, viene a fare uno spettacolo di pomeriggio durante l'aperitivo. Sì. C'è una band che comunque si trova a Bologna. Vieni. Beh, lì, magari, c'è un duo acustico. È una, diciamo che è un'elaborazione della jam session. Ecco, che si ritrova in maniera così per uno spazio particolare. Ecco, diciamo che è una similitudine forse un po' forzata, ma dà l'idea di quello che si vuole portare in questi concerti a sorpresa. Ricordiamo che l'aperitivo è in collaborazione con Cucine Popolari, come già Luca ha evidenziato. E allora a questo punto ti chiedo quando si comincia, e per quanto riguarda tutti gli aspetti, chiamiamoli logistici, per questa rassegna. Allora, intanto è già cominciata. Tutte le attività estive sono già cominciate, iniziate il 9 di giugno. La domanda più corretta è il prossimo appuntamento. Sì. Intanto facciamo una programmazione giornaliera, diciamo, a livello di concerti non è proprio giornaliera, ma tutti i giorni comunque si troverà musica suonata da qualche DJ, con console che con vinili, perché diamo anche una preferenza ai vinili, per i cultori del vinile. Soprattutto c'è un format molto carino che sarà Vinyl Lovers, dove l'ospitante sarà Natty Dub dei Feng Shui Project. Puoi portarti il tuo disco, sì, e ascoltarlo insieme a noi. Bene. Questo è molto per il DJ set in vinile. Io mi propongo, se non avete la lineup già vieni subito prepara la valigetta, è già pronta guarda, tutto... assolutamente, io ti ringrazio, ed è bella, guarda, questa situazione. Dimmi, guarda, vado dritto sui prossimi appuntamenti, ma quelli proprio vicini. Abbiamo stasera gli Psiconauti, che fanno un bel funk, è composto da un trio, e in questo trio ci sono il batterista di Rumba de Bodas e il bassista di Westfalia. E poi il 17 sabato ci saranno i Cumbia Poder, che purtroppo mi perdo e non volevo perdermi, con Marco Zanotti alla batteria e altri due grandi musicisti. Sì, perché adesso mi trovo a Taranto in occasione del Medimex, ho portato anche il Binario 69 qui al Medimex. E poi il 22 abbiamo Carlo Maver. Ah sì, fisarmonicista, bandoneonista e quant'altro, esatto, polistrumentista. Esatto, anche direttore artistico di Crinali, un festival che si svolge sull'Appennino. Lui suonerà insieme ad Andrea Gresini e altri due musicisti con il suo progetto Flute Fever and the Soul Fetus. Bene. Tutto a base di vino. Vedi, sì, beh, come dargli torto. Del resto, ascolta, e visto che appunto, come ho detto, è molto esteso, per avere un sunto e poter consultare data per data, almeno così la rete ci può venire in aiuto, si può consultare il link. Certo, alla fine siamo arrivati un po' lunghi, per cui a breve uscirà la grafica completa con tutto il programma, ma nel frattempo, seguendo appunto i nostri social, quali Facebook soprattutto in questo caso per quanto riguarda gli eventi, e Instagram per quanto riguarda le attività più immediate, per sapere cosa c'è oggi, cosa c'è domani, sui nostri canali appunto come Fondo Comini su Facebook, no, come Fondo Comini, scusa, come Comini Express, che è il nome della rassegna, con la S, come se fosse espressività. Esatto. E poi anche sui canali del binario, naturalmente, che sono quelli un po' più seguiti, e sulla programmazione sul calendarione di Bologna Estate. Bene, io ti ringrazio tantissimo per questa conversazione, ti contatterò a parte perché... sai che ne ho voglia di fare una serata col vinile, e quindi magari avremo modo di rivederci di persona per questa estate 2020. Assolutamente. All'interno di Comini Express. Ti auguro una buona giornata, un buon weekend e, se vuoi, appuntamento per Radio Città Fujiko. Con tanto amore per il jazz, come tu ben sai, daremo una specificità magari al programma appuntamento per appuntamento. Grazie Luca. Grazie a te William, buona giornata. Buona giornata, ciao. Ciao a tutti. Bam, è Fresh in My Mind, dal lavoro di A Forest Mighty Black. Questo è la rivisitazione di questo, secondo me, capolavoro di A Forest Mighty Black da alcuni produttori e alcuni DJ. Il brano Fresh in My Mind lo stiamo ascoltando dagli Hacienda. Ed è su queste note che io vi auguro un buonissimo weekend, ringraziandovi per l'attenzione e dando appuntamento a lunedì per i magazine e l'inizio della settimana, ufficialmente la seconda metà del mese di giugno, che peraltro è già iniziata. Rinnovo i saluti con un grande abbraccio, tra poco avremo l'Edipeo enciclopedico, a seguire Liberi Dentro rassegna stampa con Alfredo Pasquali e Emanuela Bassi, e la programmazione di Radio Città Fujiko, e dal vostro William Piana un caloroso abbraccio a tutte e a tutti, una buona giornata e un buon weekend. Ciao, a lunedì.